teacher. Hola, c'è qualcuno? Chi è, tu? Sì, sì. Avanti che vuole entrare. Hola, attento a dirci, c'è qualcuno? Vabbè, se vuoi entrare, entra, ti devo andare a portare. Sto provando sempre quel Texas, però col Turner Super Sidric. Ho visto che le connessioni sono uguali. C'è un fischio sotto, però. Un fischio, sotto un fischio. Abbasso, aspetta, Guarda così, ho abbassato l'amplificazione. Si è abbassato tutto, ma il fischio c'è sempre. E adesso? C'è ancora? A parte il ronzio della ventola dell'alimentatore. No, proprio un fischio. Non so se puzza la ventola o che cosa, un fischio leggero. No, vabbè, c'è un fischio, vediamo un po' così. Qua si è sparita adesso. No, no, c'è sempre. No, non so più cosa dire. Con l'amplificazione ce n'è, sì. Sì, a Puglia. Beh, magari, non so. È fastidioso, Si sente, diciamo, non è... Già ti capisco, però si sente questo fischio sotto. Ma su che radio la sta mettendo? Ora. Che avanti che chiama? Non so se sei tu, Mirko, se sei tu ti sento mezzo a QRM. Non lo so, non ti tiro fuori. Sento che parli, però non ti tiro fuori. No, non sono io, Roberto. Stavo parlando di questi casi. Franco, è Roberto. Franco, in macchina. Senti, Perché Claudio è andato via, ha battuto la torre di controllo, ma c'è sempre le orecchie pelose. Ciao Fra, buonasera. Santiago 4 arrivi qua, ultimamente bene. La postazione mia la conosci, quindi non ci sono problemi. Buonasera a tutti. Ci avete le antenne che non ricevono, cazzo. Io lo sento Santiago 3, ma non capisco quello che sta dicendo. Cos'hai detto, Fra? Ciao Fra, salutami Anna. Sono col Galaxy che è anche mezzo sordicchio. Infatti sono 10, ma se mi ascolti io ti ascolto, non ci sono problemi. Sei in macchina dentro al ghero, figurati, Roberto. Caspita, ti ho lasciato lo scettro, boh, e ti fai fregare così. Santiago 4 qua arriva, è in macchina dentro al ghero. Qua non si capisce quello che dice, si sente che sta parlando ma non riesco a capirlo. Probabilmente tu sei più aperto da quella parte lì. Più aperto, io lo servo e sono un bel più aperto. Alto sono sempre alto, però io ricevo benissimo tutti, veramente molto bene. Ciao anche a Luca. Buonasera a tutti, dai. Rimango in ascolto però, non aggiungare la verità. Sono entrato solo per dirti che era Franco D'Alghero, ok? Ciao. Ma Franco California sta dicendo? No, Franco Binario. Perché una volta Franco lo sentivo, boh, strano, che adesso non lo sento. Boh, non lo so, qua arriva magnificamente bene, senza nessun problema. Ok, c'è Luca che sta provando un microfono, io rimango un pochettino, poi devo uscire, sono in strappo, vabbè. E anch'io, devo andare a ritirarmi le pizze. Adesso gli ho già ordinato, verso le 7:30 esco, poi me ne sto un po' a Sassari, un'oretta, poi verso le 8:30 me ne rientro. Dai, vi saluto, ciao a tutti, buona serata e bim bum bam, ciao ciao. anche io, ciao Claudio, ci sentiamo, dai, vediamo se è rientrato Luca. Ciao Fra, un abbraccio anche a voi, quando rientri? Ah, state dormendo lì? Bene, bene, bene, io ho sentito Anna che si è sentita con la mamma mia su WhatsApp, quindi saranno aggiornati, poi ci vediamo Fra, dai, ciao, un abbraccio anche a te, salutami a tutti, ciao. Ah, sei ancora al lavoro? Ho capito, ho capito, sei rientrato al lavoro, però sta tornando l'albergo. Va bene, Fra, questa casa bisogna sfruttarla, sennò è un casino. Ciao Fra, l'hai cambiato anche a voi, ciao ciao. Ciao Roberto, ciao anche a Luca, salutami a tutti, ciao ciao. Oh, ho cambiato radio, prova a parlare Fra, se ti sento con questa. Fra, il segnale è quasi 7, sì, arrivi, però la radio è quasi incomprensibile. Non so se tu mi stai ascoltando. Sono molto fruscio, molto QRM, io ho provato la sua radio che è un po' meglio ti sento, però tutta la conversazione non l'ascolto perché c'è molto QRM. Ok, mi sembra che è entrato Luca, vediamo se c'è Luca, avanti Luca. Io già l'ascolto io. Ciao Fra, sto saldando Roberto, un attimo. Ma che dire che c'è un QRM, Robè, che manco si muove, la devo smettere. E qua a casa mia ne ho tanto, io ho quelle antenne che pigliano tutta la mondezza. Adesso già ti sente comunque, già ti sente Franco. Però tu non lo senti, c'hai solo il segnale, no, di radio è forte, arriva bene qua. Io ho zero di QRM, sia nel Galaxy che nel 430, proprio zero, manco si muove l'ago. No, qua ce n'è, c'è Santiago, c'è il QRM, lui è in mezzo proprio al QRM. No, qua no, assolutamente niente. Va bene, dai che mi preparo, ciao a tutti, ciao ciao. Ho cambiato radio, molto più bassa dell'altra, da questa. No, simile all'altra, non cambia niente. Ok, va bene, dai, fai buon tutto, anche io rimango qualche minuto, sto facendo ora, poi devo uscire. E io altrettanto io, dai, ciao ciao, ciao a tutti, divertitevela. Eia. Ora, tu ma c'è qualche problema di connessione o che cosa? Ma io? Ma c'è qualche connessione, perché c'era quel fischio, qualche massa? Ma, veramente non ho toccato niente, sto saldando un'antenna e... Il fischio ci dovrebbe essere ancora. Ma adesso stai andando bene, ma hai fatto qualcosa? No, niente, ho solo avvitato la ghiera del microfono al baracchino. Stavo pensando fosse quello come era svitato, che non facevo massa. Oh, adesso va benissimo, perfetta. Puoi anche sollevare il Mickey Gain o sei già troppo alto? No. Allora, così al massimo il Mickey Gain e il microfono è metà. Vai a parlare. 1, 2, 3, prova, adesso te lo metto. Così a 8, il microfono, vedi un po'. No, adesso ti stai portando tutto l'avvento là dentro, sei troppo alto. Allora, vabbè, a 7 va bene o... perché l'alimentatore è sotto, capito? Sotto il ripiano, così che la prende il rumore. Diciamo si sente l'avvento, ma comunque il livello sono abbasso un peluzzino. Ma che idea o un microfono? Il microfono, sto dicendo. Allora, così a metà e così a 5. Andare poco a poco si sente, ma già va bene, dai. Ok, vediamo Franco, ho cambiato radio, volevo sentire se mi ascolta con questa, se io, anzi dice mi ascoltava, se io riesco a tirarlo fuori. Tu lo sentivi addirittura la lata dolce? Sì, lo sentivo benissimo. Aspetta che riattacco quel coso, vedere se saturo. Avanti Franco, se ci sei. Strano che una volta l'ascoltavo e non ascoltava nessuno, ero l'unico che la sentiva a Franco. Oggi stavi parlando, Franco, ti sento forte del radio, però non capisco quello che dici, proprio si sente che hai parlato, ti sta portando appresso un fruscio e sento il bip. Non capisco, ti sento che stai parlando e dovrebbe essere anche molto forte la radio, perché però purtroppo c'è questo, ti tiri appresso questo QRM, questo disturbo e non mi riesco a capire quello che dici, perché si sente proprio chiaro il bip. Come che sei radio 5, però ti tira presso, probabilmente sei proprio al limite del QRM che dico che ricevo io. Pure qua sto utilizzando una radio buona, deve essere perché anche io lo sento bene. L'altro giorno non sentiva nessuno a coso, a Mirko, l'unico che l'ascoltavo ero io. Probabilmente sei in qualche passaggio che non riesco a tirarti fuori. Aspetta che cambio radio per curiosità. Prova a parlare adesso, Fra, è uguale, non è ciambaduta. Sono sempre QRM a sì. Vediamo un po' se questa è meno rumorosa la radio. Prova a parlare Fra. Niente, sento che parli Santiago, quasi 7, il segnale, ma sei proprio in mezzo al QRM, nulla, ti dispiace, non so se tu mi accuppi. Cioè questo QRM è fortissimo qua in questa zona, purtroppo è così, non c'è niente da fare. Se fosse stato più basso il QRM ti ascoltavo bene, perché sei quasi 7, trasse del 7, sì. Ma te stai andando verso Sassari o sei fermo lì? Ho cambiato radio, cosa? Luca, guarda se è successo qualcosa. No. Cambiato, si sente la differenza di radio? Saturo, no? Sei saturo, guarda che faccio. Sì, no, stavo rifacendo quella prova dell'altro giorno. Caffa. No, va bene la radio. Sto finendo di saldare sta roba. Ia. Ma non hai fatto quell'abbassamento di potenza? No, mi ho fatto una ricetta, è proprio, proprio il tipo di lineare, capito così? Non, anche mettendo due watt è proprio lineare così. Questo modello qua, ma che cos'è? Il 250. Come mai? C'è un po' di gente, non ne ho mai sentito problemi del genere. No, ho fatto più di una ricetta, ho chiesto anche a un amico, ma no, no, è quel tipo di lineare che anche con due watt fa così, capito? Non è come gli altri modelli. Questo modello qua deve andare su potenze superiori, ecco, per andare bene, ma con potenze così basse non dice che c'è così, mentre gli altri 300, gli altri superiori vanno bene di questa marca. Vabbè, la detta di Fabio Cazzolini, sono proprio apparecchi tirati il collo per commerciali, non hanno un granché di niente. Bisogna andare su altre marche o direttamente a valvole, così non hai tutti questi problemi. Sì, infatti. Ma comunque sto tenendo d'occhio questa radio, sto parecchio, sembra che stia andando bene. Allora, da neanche 4 watt. E c'è quasi 9 più 20 qua, sta arrivando benissimo. Sì, c'è l'antenna che è abbassata del tutto perché, ripeto, ho staccato un dipolo, ve lo dovevo dare. E adesso, siccome volevo mettere su la bazooka in quel palazzetto, sicché mi devo decidere a salire sul tetto, attaccarci la bazooka sotto e così poi tirare su tutto di nuovo. Una domanda, quella SP23 è il tipo nero o il tipo grigio scuro, metallizzato? È il tipo grigio, l'ho già imballata, dovrebbe, domani mi fanno il pagamento, un radiomattore mi ha telefonato. È un buon prezzo quello lì, ormai c'ho quell'altra, se no ci siamo messi d'accordo. No, l'ho provata, una bella colonnina, funziona bene, giustamente, cosa vuoi, dentro non erano per nulla, a me, quella colonnina è buona, serve per fare linea, sia in altezza, larghezza, cioè profondità, che dentro non venuta. La cosa che a me mi fa ridere, quella colonnina c'è il tipo nero che è abbinata al 450, è tipo quello grigio militare al 440, al 140 eccetera, e la stessa colonnina la montano sul TS2000, perché guardate il manuale d'uso e la montano tutti su due, mentre se tu vedi la colonnina del 940, cacchio, a parte della differenza di grandezza, il suono, i filtri, tutto, ma è un altro pianeta. Infatti non ho capito come nel TS2000 abbiamo messo una colonnina così ridicola. Boh, è chiosa. La 940 io ce l'ho abbinata e la uso sul 44 e sull'altro, ma un altro pianeta, perché posso commutare una e l'altra, ma tu devi sentire quando senti un radione con una cassa chiusa di impianto stereo, un abisso. Sì, ci sono modelli che dentro hanno il circuito per far uscire il suono anche meglio, regolazioni, potenziometri, bassi, alti, capito? Quelle sono belle colonnine. E poi c'ho altre cose, dai, però sono casse di impianti stereo piccoline, quelle da libreria, anche quelle vanno da due vie, dopo le date a un ricevitore, quella c'ha un bel suono, però non sono diverso, diciamo, per frequenze c'è anche belli acuti, squillanti, diciamo in AM non te ne vai nulla di chissà cosa. Vabbè, poi se c'è i filtri già nella radio. Quella del 940, l'SP940 c'ha due filtri alti, due filtri per gli alti e un filtro per i bassi, e poi può commutare due radio, c'ha quello di buono. Vediamo se Franco adesso si è avvicinato, se lo sentiamo, io arrivo a quasi 7 il segnale, si sente che parla, però è mezzo al QRM, io ho il QRM altissimo qua, per quello volevo mettere anche un'antenna montata diversamente, perché così mi sposto quando metto lì tutto questo disturbo che ho. Ora vediamo se c'è qualcuno qua su 10, qualche minuto rimanga ancora che poi devo uscire. Avanti su 10, chi vuole entrare, ecco, buonasera. Ciao Lupo Grigio, dove sei? Ah, sempre con la stessa antenna, sei quasi 9, tra l'8 e 9 il segnale, la radio non ti do 5, ti do 4, però già si sente, dai, ti tiro fuori. Già lo so, poi c'è caldo, molti preferiscono andare da altre parti. Scusate, mi telefono un attimo. rieccomi, avanti le coste. Nicola, ci sei ancora? Sto parlando, sono un pochettino più basso, Santiago 8. Il problema, se avessi la radio un po' più forte ti davo 5, non ti do 5 perché è bassina. Ehi, ragazzi, ti ascolto, tu come le tiri fuori? Ehi, c'era anche Luca Flip, vediamo se è sistemato, sta facendo le prove. Luca, lo senti a Nicola? Sì, sì, sto saldando il collarino, un attimo, roba. Avanti, Lupo Grigio. L'hai copiato le qua, Luca? Cioè, dei cambiamenti di segnale da 7, 8, 9 oltre, cioè il cambiamento non capisco, ma ti stai muovendo, stai facendo qualcosa. Adesso così sei Santiago 8, a poco fa sei arrivato anche a 9, poi sei sceso a 7, forse è come abbassi l'antenna, non lo so. Però si giuri, adesso devo lasciare, che devo fare cosa? Dai, ciao Nicola, ben sentito, anche se per breve termine. Idem a Luca, che ci sentiamo in altre situazioni, e poi saluto gli eventuali qua amici in ascolto. Se Franco mi copia ad Alghero, saluto anche a lui. Ciao ciao, buon ritiro da parte mia. Ciao. C'è qualcuno? ciao, lì dal Ghero, da Sassari mi serviva. Come mi ascolti? Puoi fare un passaggio un po' più lungo? Va bene, dai, ti ringrazio allora. Ascolta, io qua come segnale diciamo intorno ai 7-8, però la radio è molto bassa. Sì, poi c'è anche un po' di QRM, magari quando attacco l'altra radio possiamo fare delle prove. Io volevo vedere a Sassari perché stavo provando una radio, quindi volevo un attimino un controllino, però da Sassari non c'è nessuno. Dai, rimango un attimino in ascolto se trovo qualcuno qua a Sassari, che sto chiudendo un apparecchio. Nessuno su questo. Nessuno sul canale 10? Nessuno al canale 10? Tutto smortos. Non c'è nessuno al canale 10? Si parla, ma la legge è quella e basta. E no, adesso, fatti gli scherzi, la legge costituzionale non prevede il vaccino obbligatorio, la legge diceva 32 del programma sanitario. Ah, bambine, uno non è che ti costringono, però c'è limitazione. Oggi a casa. Domenica, papà, boh, non lo so. E no, non lo so, ma c'è la papà, ma c'è un bel panino, c'è una dieta. E fai così. Come polpo. Ma c'è un tipo, ho fatto poco su 10, ma adesso non c'è un po' più. No, ho capito, ma sono un po' lecco. C'era un tipo prima che ha fatto un poco su 10, ma io ero... Non è così. Sì, ma io no. Chi è? Avanti. Capo. Ciao Mirko. Sì, Santiago 4 e la radio un po' bassina, Capo, tu mi senti bene, Valghero? Capo. Quanto è il segnale lì a Valghero? Capo, c'è la compagnia di Cristia. Cristia, non senti Mirko Valghero? Niente, non lo sento. Mirko, non ti sente, no? No, non ti sente. Sì, quello che è il QRM. Capa. No, qua non arrivi fortissimo, ma già ti sento. Faccio essere di bianco, guarda, se non faccio la mia tavola. Capo, una bella rietta stasera, eh. Avanti. Roberto non è entrato, c'era Mirko Larghiero e Cristian. Lo metto. Roberto non è entrato stasera. Santiago 9 e con i picchi anche qualcosina di più arriva. Va benissimo, vediamo se c'è Antonio, che dice c'era anche Antonio, avanti Antonio, niente. Ok, riprendi Luca, ma stai facendo qualche operazione nuova? No, sta facendo l'antenna tua, Lu, tu sei fissato, poi come sei messo sta andando alla grande, io l'ho sempre detto, vai benissimo, poi quando la pulisci cosa ti credi che cambia? Non cambia niente, anzi, ma non si tocca, meglio è. Vabbè. Sì, però se la devi sollevare allora devi fare una bella piastra di fissaggio, fissare da lei con un tassello chimico grosso e un palo di sostegno di un certo livello ci vuole. E poi se la tiri troppo ci vogliono anche i tiranti, e per cui tutto bisogna capire bene cosa vuoi fare. Di un metro. Aspetta un attimo, che vuoi. Ehi, avanti di nuovo a te Mirko. No, no, la radio è 5, è perfetta, non posso dire niente. Magari rispetto a Luca, se è più basso di radio sarebbe stata un pochettino un po' più amplificata, magari sarebbe stato meglio, ma ripeto, quando c'è Luca magari il volume è un po' più alto, a te devo alzarlo un pochettino e lui abbassarlo per avere lo stesso volume, ma ti ascolto perfettamente bene, non ci sono problemi. E mi confermi anche un rapporto a me, se mi vuoi dare un rapporto di segnale e di radio. Quindi non mi porto flusso o niente di coso, quello mi ha preso, non mi porto niente. C'era stasera, però lo sentivo molto male a tratti, anche se c'era il QRM alto a 7, 6, 7 ce l'avevo il QRM, c'era Franco lì dalle tue parti, Franco Binario, e lui mi ascoltava, dice bene, però io lo sentivo molto male perché probabilmente era in macchina, non riusciva a farsi sentire. Non so se tu l'hai sentito un'oretta fa più o meno. Quindi ok, non so se mi trattengo più di tanto, perché poi devo mangiare anche io, non è che ne abbiamo molta di fame, però ci vuole sempre qualcosa per tenerti in forma, dai. Comunque ti ringrazio, pochi minuti ci siamo sentiti, dai, da modo di risentirsi in situazioni migliori. Avanti Luca, feri saluti per Mirko. Sa Luca si allontana, vediamo se Antonio è rientrato. Antonio sicuramente sta mangiando. Avanti Antonio, se ci si batte un colpo. Ci sono rimasto solo io, dai, io rimango in Corrix, se entra qualcuno nel frattempo. Sono qualche minuto ancora e chiudiamo la trasmissione. Ora. Beh, c'è qualcuno?